Ciao, io sono Laura Voltolina e questa newsletter è Una storia di lavatrici e tenerezza. Non sono una grande fan degli elettrodomestici. Non ho mai voluto la TV, il microonde, il ferro da stiro e il mio estrattore di succo è un regalo della mia amica Sara. Ciao Sara, che non lo usava più. Anche se considero la lavatrice un bene primario, quella volta, anni fa, che si ruppe, ci misi diverse settimane per decidere di sostituirla. Sono un ottimista ed ero sicura che si sarebbe potuta riparare. Mi sbagliavo. Nella foto di intro puoi vedere il Mazinga che giganteggiava all'ingresso del centro commerciale il giorno in cui finalmente comprai la lavatrice nuova. L'ho conservata, la foto, non la lavatrice, perché è emblematico. Mazinga, in fondo, è una specie di lavatrice antropomorfa. Nelle sue battaglie perde pezzi, si rompe, esplode, e tra un episodio e l'altro orde di meccanici sistemano, sostituiscono, aggiustano i danni e voilà! Alla puntata successiva è bello che riparato, pronto a ricominciare. Non serve appartenere a quella generazione, la mia, cresciuta a pane e cartoni animati nipponici, per identificartici. E ti ci identifichi perché, da qualche centinaio d'anni, in Occidente gira una metafora che non si limita ad essere soltanto arida e meccanicistica, ma è pervasiva e impregna del tutto la nostra società. Soprattutto è enormemente dannosa. L'hai sicuramente sentito dire tantissime volte, forse l'hai anche pensato tu ogni tanto. Gli esseri umani sono come macchine. La macchina umana. Quando qualcosa non funziona, che sia una malattia, un trauma, una relazione, significa che nella macchina qualcosa si è bloccato, è da aggiustare o sostituire, esattamente come faresti con una lavatrice rotta. Il fatto è che affrontare una difficoltà a qualsiasi livello, trattando te stessa o te stesso come un elettrodomestico, è impossibile, perché la lavatrice è un sistema complicato, ma tu sei un sistema complesso. Sei carne, ossa, tendini, visceri, processi biochimici. Sei emozioni, sentimenti, sogni. Sei spiraleggiante, pulsante, palpitante. Sei biologia e poesia. Se tratti la tua meravigliosa complessità come se fosse rigida meccanica, non puoi comprenderla e non puoi nemmeno funzionare davvero bene. Quando invece la accogli, la tua complessità, allora ogni cosa cambia, assume significati diversi e potenti. Come si fa? Si inizia dall'ombra. Da quelle parti di noi che neghiamo, misconosciamo, ignoriamo, che però hanno dei doni preziosissimi. All'ombra ci si appresta con cura, con leggerezza. E soprattutto con tanta gentilezza. Ci si avvicina con la narrazione dei miti che la raccontano e scoprendo i miti del corpo e accogliendo i loro regali. In cosa trasformerai la tua ombra? Quale sarà il suo regalo per te? Io so che ti sentirai più intera e leggero, più intero e leggero. E avrai a disposizione moltissima energia, tutta quella che usavi per tenere l'ombra lontana dalla luce. I doni dell'ombra, yoga e mitologia online per scoprire i tesori nascosti è il percorso di febbraio. Puoi partecipare in diretta nei giovedì di febbraio dalle 19:30 alle 21 o quando vuoi tu, con le registrazioni che resteranno a disposizione almeno una settimana. Se vieni con un'amica o un amico, avrete entrambi uno sconto di 15 euro sul contributo di partecipazione. Ci si può iscrivere, attenzione, entro sabato 29 gennaio. Rispondi a questa mail che ti mando tutte le informazioni. Le parole che ho scelto per noi oggi sono di Isabella Guanzini, dal suo Tenerezza, la rivoluzione del potere gentile. La tenerezza è puro affetto per la fragilità e la bellezza del nostro esserci. È un essere grati per la precarietà e la mancanza che costituisce ogni creatura vivente. un abbraccio, Laura.